24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Bonanni lascia la guida della CISL, era necessario un segno di rinnovamento, convocate segreteria e comitato esecutivo. Bonanni lascia la CISL, il mio tempo è finito, dice, volevo dare un segnale di rinnovamento. Mossa a sorpresa del leader della CISL che lascia con 6 mesi di anticipo sulla scadenza del mandato. Raffaele Bonanni, buongiorno, come Benedetto XVI? Buongiorno, eh? Come va? Allora, come Benedetto XVI, le dimissioni? Ma no, erano in vista, almeno per me, da diverso tempo. Ah. 4 mesi fa ho indicato la Anna Maria Furlan, segretario generale aggiunto, e diversamente da come si fa di solito, l'ho indicata anche... Vabbè, sarà lei, insomma, successore. Sarà lei. E quindi significava che andavamo al countdown. Sì. E quindi credo di aver fatto bene. Senta, ma paura di un autunno caldo ingestibile? No, non ho avuto mai paura di situazioni incandescenti. Nella mia vita sindacale ci sono stato sempre. Le affrontate sempre. Senta, ma il sindacato deve cogliere questa occasione per cambiare veramente, per essere all'altezza dei tempi? Sì, deve cambiare, di questo sono convinto, deve cambiare. La CISL anche deve cambiare, nonostante ha subito cambiamenti nell'ultimo anno e mezzo, voglio ricordarlo, che ho lavorato molto per diminuire della metà le strutture orizzontali territoriali e ho ridotto da 17 a 7 categorie, però una sorta di spend review interna. Senta, ma soprattutto per organizzarsi meglio a affrontare la contrattazione aziendale, sì, che è la vera frontiera. Che è vera, la vera frontiera è lì, si stanno facendo esempi molto importanti. Ma la Madia ha avuto ragione con i permessi sindacali? C'era un abuso? Peraltro non ci siamo neanche tanto stracciati le vesti, però se la riforma della pubblica amministrazione è solamente siamo freschi. Senta, ma in che cosa ha ragione Renzi? Ma Renzi ha ragione nel voler imprimere ritmi diversi e nuovi per il paese, ha torto perché non usa strumenti adeguati per farlo. Lui in definitiva rappresenta il modello di un uomo solo che tira, un uomo solo che tira, si sfianca, cade, stramazza a terra. Senta, ma sarebbe bene che mollasse anche la Camusso? Questo non mi riguarda. Vabbè, ma lei è un osservatore molto qualificato. No, non voglio ficcarmi in situazioni, in vespai come quelli della CGIL. Un vespaio la CGIL. Mi basta la responsabilità della CISL. È un bel vespaio la CGIL. Lo vedono tutti. Sì. Senta, la donna che lei ha indicato l'ha detto, sono loro che cambieranno il futuro? Le donne sono tenaci, sono determinate e hanno una capacità innata di vedere i particolari. Credo che questo è il momento di vedere bene i particolari per riorganizzare il generale. Senta, c'è Mario Seghi che le vuol fare una domanda. Buongiorno, Bonanni. Buongiorno. Allora, c'è la legge di stabilità. Che cosa si attende da quello che sta emergendo così a spizzichi e bocconi? Cioè, qual è il provvedimento che può qualificarla secondo lei? Ma una vera spend review che non mi pare alle viste. Mi pare che si va verso un taglio lineare solito, che è quello che ha messo giù l'economia, oltre che non ha riorganizzato il paese. E poi delle decisioni forti sulla ricchezza del paese, che è l'industria. Non sento parlare di questo, non vedo proposte su questo, non vedo consapevolezza su questo. E l'industria, poi tutti gli altri settori, ma l'industria è l'economia reale, insomma l'economia reale. Senta, un'ultima cosa, Bonanni, prima di fargli gli auguri, che c'è nel suo futuro? Non lo so, questo non lo so, guarderò intorno. Ho molte realtà amiche, compresa la CISL, e qualche cosa lo farò per dare un consiglio, per dare un aiuto, ma anche per impegnarmi io stesso. E allora tanti auguri per il suo futuro. Grazie. Grazie. 800 24 00 24, il numero verde, 349-238-6666 l'SMS. Ma intanto veniamo a noi all'economia reale. Come dicevamo con Bonanni, lo scontro tra l'Unione Europea e la Russia è arrivato alle sanzioni, cioè all'economia reale. È ormai in vigore la nuova ondata di sanzioni europee contro la Russia. L'Italia, l'Unione Europea, ha sviluppato una strategia fatta da un mix di apertura di canali diplomatici, di pressione economica con le sanzioni. La nostra risposta sarà adeguata, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri russo. Sarà proporzionata al danno che queste sanzioni causeranno alla nostra economia. Per la prima volta in Italia vengono applicate le sanzioni varate da Stati Uniti e Unione Europea contro la Russia di Putin per via della crisi ucraina. Ville, appartamenti nelle zone più belle della Sardegna, un albergo lussuoso al centro di Roma. Tutto congelato, società comprese. Un malloppo di 30 milioni di euro dell'oligarca fedelissimo amico di Putin, Arkady Romanovich Rotenberg. Ecco, dottor Nieti, corrispondente in Italia dell'agenzia nazionale russa New Day News. Ecco, ieri l'abbiamo sentito, i beni in Italia dell'imprenditore Rotenberg sono stati bloccati. Quali reazioni ci sono state a Mosca? Per il momento le reazioni ufficiali non ci sono state. Comunque sì, non rappresento il potere ufficiale, quindi non posso rispondere per come potrebbe, quale sarebbe la risposta del governo di Mosca. Però voglio dire una sola cosa: per quanto riguardano le indiscrezioni della stampa, compresa la Repubblica, Rotenberg sarebbe anche proprietario del Bari, il club calcistico Bari. Sì. Allora adesso che farà la Guardia di Finanza? Sequestra il Bari? Il Bari vieterà le partite? Senta, il fatto che Rotenberg sia amico personale di judo di Putin complica l'affare? Potrebbe essere. A parte essere l'amico di Putin, è anche uno degli uomini più ricchi, potenti e influenti in Russia. Penso che conti di più rispetto all'amicizia personale. Dottor Nieti, Mosca si rifarà sulle nostre imprese in Russia? Potrebbe essere, ma non penso che saranno così meschini. Di solito loro non rispondono azione ad azione, di solito le contromisure si prendono solo e nel caso quando si tratta di una politica dello Stato o di Unione Europea, certo. Come era successo prima. Senta, dottor Nieti, ma resteremo al freddo quest'inverno? C'è il rischio? Dipende dagli ucraini, se continuano a rubare, allora sì. Dottor Nieti, senta, in Russia vivono centinaia di migliaia di italiani. C'è il rischio di misure fisiche su di loro? Non penso proprio. C'è sempre stato un feeling tra il popolo russo e l'italiano. Gli italiani un po' sono come russi, siamo cugini, quindi il popolo russo è molto accogliente, è molto simpatico, gli italiani sono molto ben visti. Quindi non penso che ci sarà alcuna conseguenza per gli italiani e le italiane come persone fisiche. Quindi, dottor Nieti, possono stare tranquilli gli italiani in Russia? Sicuramente, senta. Ricordiamoci anche una bella commedia degli anni 70, Le straordinarie avventure degli italiani in Russia, molto molto popolare tuttora in Russia. Dottor Nieti, che rapporto c'è oggi tra il governo di Mosca e il governo Renzi? Io penso che il rapporto sia ai minimi storici, sia proprio, per non dire, a zero, anche perché oltre alle misure, oltre a seguire la scia delle sanzioni imposte dall'Unione Europea, a differenza degli altri paesi, come per esempio la Slovacchia, che ha detto così che non appoggerà altre sanzioni, oppure americana Exxon, che ritardosene delle sanzioni, continua a operare con Rosneft per la trivellazione dell'Artica. Eppure il governo finlandese, che ha detto così in deroga alle sanzioni, continuerà la costruzione di una centrale nucleare russa sul proprio territorio. Quindi, sì. con Renzi le cose vanno male. Ripiangete Berlusconi? Guardi, non sono stato mai un fan di Berlusconi, ho scritto molti articoli molto critici sul suo conto, però bisogna separare la politica interna oppure la scena internazionale e i rapporti con la Russia. Per quanto riguardano i rapporti con la Russia, oggettivamente Berlusconi ha fatto più di tutti gli altri statisti italiani, quindi questo è un fatto innegabile, i rapporti erano all'apice. Senta, in Europa molti fanno il paragone tra Putin e Hitler, cioè dicono l'occupazione di territori come premessa all'espansione. Lei lo vede questo rischio? Assolutamente no, e quelli che lo dicono forse sono sani, sono loro stessi in odore di nazifascismo. Basta ricordare questa domenica la manifestazione degli ucraini qui a Roma, trasmessa del resto anche dai canali pubblici italiani. Tra i manifestanti pacifici c'erano anche rappresentanti di filo nazisti ucraini, il Pravi Sektor, settori di destra, c'erano le bandiere rosso-nere e nessuno è intervenuto, e la popolazione che ha manifestato non ha preso alcuna distanza. Ricordiamoci che settore destro sono seguaci del Bandiera, e Bandiera, tra Bandiera e i suoi metodi, non c'era alcuna differenza con i metodi di NKVD staliniano. Ricordiamoci che nel 1952 fecero fuori il classico della letteratura ucraina, Yaroslav Galan, uccidendolo esattamente come hanno fatto i sicari di Stalin con Trotsky. Senta, a bascia testa. Senta, dottor Nieti, un'ultima cosa. Ma intanto la libertà di stampa in Russia aumenta o diminuisce? Ma guardi, io non saprei che indici utilizzare in questo proposito. Per quanto riguarda i mass media di opposizione, ce ne sono ed esistono e prosperano, anzi, per esempio con la crisi ucraina, l'Eco di Mosca, la radio più indipendente, più in fronda, più all'opposizione al Cremlino, ha aumentato solo il proprio traffico sul sito, quindi adesso è la radio più seguita assolutamente, oppure per esempio e quindi in Russia ci sono molti contro Putin. Non saprei dire quanti pro e quanti contro, perché adesso, secondo gli indici dell'opinione pubblica, fatti tra l'altro anche da diversi opinionisti russi molto accreditati, l'indice di Putin sarebbe all'impennata, a 80% del consenso nazionale. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, gli sms. Questo il quadro dei rapporti con la Russia di Putin, così come si presenta secondo il giornalista russo Nieti. Ma ecco, ma quali possono essere le conseguenze concrete sulla nostra economia? Uno che ne parla con foga è il segretario della Lega Salvini. A metà ottobre andrò in Russia, perché se qualcuno va a studiare come aprire nuove aziende negli Stati Uniti, con l'altra mano sta mettendo in strada migliaia di imprenditori e lavoratori sostenendo delle sanzioni economiche idiote contro Putin e contro la Russia, che costeranno alle imprese italiane in agricoltura e in artigianato più di 1 miliardo di euro. Ecco, Salvini dice che dopo le sanzioni imposte, l'avete sentito, l'Unione Europea, USA, Canada, Australia, Norvegia, la Russia ha risposto con il blocco delle importazioni di alcuni prodotti. Questo costerà 1 miliardo di euro al settore agroalimentare, secondo il segretario della Lega Nord, che però in realtà ha azzardato per eccesso. Infatti abbiamo verificato con i nostri collaboratori di Pagella Politica i numeri e abbiamo scoperto che nel 2013 il valore totale dell'esportazione dell'agroalimentare aumentava a 218 milioni di euro tra ortofrutticoli, fresti, latticini, carne fresche lavorate, alimentari e diversi e pesce. Non si arriva assolutamente a 1 miliardo di euro, nemmeno aggiungendo i pellami russi che valgono 70 milioni di euro. Ecco, quindi l'affermazione di Salvini è azzardata per eccesso, quantomeno. Dottoressa Ferrarini, abbiamo al telefono la dottoressa Ferrarini. Buongiorno Lisa Ferrarini, buongiorno, vicepresidente di Confindustria per l'Europa, imprenditrice lei stessa. Ecco, oltre alla previsione di una perdita di 200 milioni di euro circa, ci sono anche i cosiddetti danni indiretti. Infatti la Russia adesso importa i prodotti che importava da noi, da Cina e America Latina. Il rischio è di perdere definitivamente quote di mercato russo? Questa è la grande preoccupazione. Noi abbiamo ricevuto parecchie segnalazioni dalle rappresentanze del nostro sistema associativo e ci hanno segnalato che i loro clienti in questo momento si stanno già approvvigionando da altri paesi. E quindi c'è anche... nell'alimentare parte il grande Italian Sounding, e quindi cercano il reggianito argentino piuttosto che il pomodoro cinese, piuttosto che tutti i famosi tarocchi che noi non vorremmo neanche mai menzionare, per cui c'è il rischio che a fronte di un ulteriore embargo i russi si abituino ad acquistare prodotti che evocano il quindi nostro un embargo drammatico per la nostra settore agroalimentare. settore agroalimentare ricordo che è un embargo parziale, non è totale, ci sono alcuni prodotti che ancora possono entrare, altri prodotti che non possono entrare. Cioè il vino per esempio è escluso? Il vino entra, i dolci entrano, la pasta entra, il caffè entra, non entra l'ortofrutta, non entra la carne in genere, non è sia surgelata che cotte, quindi anche lavorata. Senta, e altri prodotti stanno entrando, i liquori stanno entrando, cioè è un embargo sì, forte, ma per fortuna in questo momento parziale. Il problema sa cos'è? È che c'è questo clima di incertezza incredibile. Perché non sappiamo, ad esempio, le vendite fatte il giorno antecedente alla chiusura del mercato sono valide o non sono valide? Quindi c'è il rischio che tutto deperisca senza neanche sapere bene perché. L'Unione Europea prevede un piano di sostegno al settore agroalimentare di 125 milioni di euro. Ecco, bastano per affrontare l'emergenza oppure no? Bastano, sì o no? Si fa per dire, perché poi alla fine se stiamo parlando, ha fatto un intervento grosso, insomma non bastano, diciamo che non bastano. E poi l'ha fatto sui formaggi e la stagionatura. Quindi no, ma senta, dottoressa, abbiamo Angelo da Bergamo che vuole dire una cosa. Angelo, buongiorno, sì, buongiorno. Allora dica. Ho un amico che ha affittato un capannone a dei russi, sì. Sono 7-8 persone che stanno lavorando e dovrebbe chiudere e ritornare ancora in Russia. Questo è. Poi noi tanti anni fa abbiamo pagato col mobile qua dalle nostre parti, il mobile d'arte, per colpa di paesi arabi, dove sono andati a civilizzarli, che c'è ancora in atto una guerra. Insomma, quindi i russi se ne stanno andando per colpa delle sanzioni. Grazie, dottoressa Ferrarini. È quello che capita, questo? No, io spero proprio di no, guardi, io spero. Però questa è una storia concreta. È una storia, sì, è un rischio concreto, infatti, insomma, è la nostra grande preoccupazione che il prolungarsi di queste misure determinano definitivamente una perdita di quote di mercato per il nostro paese, a vantaggio di tutti gli altri operatori. Ma soltanto noi, siamo solo noi che poi paghiamo, Tendenzialmente a livello europeo in questo momento direi che siamo come sempre solamente noi. Io non vorrei attribuirlo alla debolezza del nostro paese, però purtroppo mi viene da pensare che sia così. Senta, ma l'Unione Europea adesso sta facendo questo accordo di libero scambio con gli Stati Uniti. Sì. Ecco, a che punto siamo? Ma insomma stiamo andando abbastanza bene, dovremmo velocizzarlo perché in questo caso andrebbe comunque a sopperire le perdite del mercato russo. Attenzione, le perdite del mercato russo non sono quelle che diceva il dottor Salvini, sono l'onorevole Salvini, sono consistenti, perché infatti l'abbiamo detto, per adesso sono 200. Un centesimo fa la differenza, ma ecco, se noi potessimo chiaramente aprire il mercato europeo e il mercato statunitense in maniera molto forte, ecco, questo ci aiuterebbe molto. Ecco, ma non è anche una trappola questo accordo? Sperare di no. Senta, dottoressa, Paolo da Udine ci scrive: l'Europa è sempre più un problema più che un'opportunità. Lei che si occupa di Europa, torto o ragione? No, l'Europa dobbiamo metterci tutta la forza e tutta la nostra capacità per tentare di sbloccarla questa situazione. L'Europa è potenzialmente è una macchina meravigliosa che in questo momento purtroppo sta andando, gliela dico proprio come la dico sempre io, ad acqua minerale sgasata, neanche a benzina rossa di una volta. E quindi noi abbiamo bisogno invece di potenziare a fare andare fuori. Noi abbiamo una moneta unica, non abbiamo avuto guerre per ottenere una moneta unica, quindi adesso bisogna che questa moneta unica diventi realmente una moneta a tutti gli effetti e che ci permetta di integrarci bene tra i nostri paesi. Chiaro che se esiste sempre un paese paese, io non ce l'ho con la Germania, non ce l'ho con nessun paese del mondo, che però decide... Beh, con qualcuno uno ce la può anche avere, ecco, non è grave. Allora se decide sistematicamente le sorti di tutti gli altri paesi, e tutti gli altri paesi in questa paura tremenda di rapporti con la Germania subisce senza reagire mai, io non voglio reagire con prepotenza, però con Insomma, quindi mi pare che invece chieda una reazione, per esempio lei si occupa del Made in Italy, non passa, è una battaglia che sembra bloccata. Non perché? Passa, io sono molto molto molto preoccupata, perché ho anche paura che i tedeschi me ne stanno facendo di tutti i colori, per i tedeschi inteso come paesi nordici c'è questo blocco fortissimo da parte dei paesi del nord Europa, che sono storicamente hanno delocalizzato da tempo il manifatturiero in altri paesi. Insomma, non ce la facciamo col Medin. Che cosa bisogna fare per riuscire a avere queste etichettature obbligatorie di origine sui prodotti di origine? Bisogna mettersi a sedere con la Germania e chiarirsi una volta per tutte. Però anche mi sembra che con la Germania sia difficile. Anche a costo di dichiarare che la Germania sta etichettando e sta marchiando Germania prodotti che vengono da altri paesi. Quindi se questa la vogliamo chiamare trasparenza, reciprocità, valore della tutela del territorio, benefici economici e tutto quello che va dietro, io francamente sulla Germania avrei qualcosa da dire. Nel senso che se una bellissima ceramica Rosenthal, anziché essere prodotta in Germania, viene prodotta in un qualsiasi altro paese del mondo e viene marchiato Made in Germany, ma io la vedo un po' una contraffazione nella mia testa. Mi sembra che la Germania, lei non vuole litigarci, però insomma non è proprio in cima ai suoi pensieri di solidarietà. No, perché vede, cioè allora si parla di Europa, vede, l'Europa ha bisogno di avere delle armonizzazioni di controlli doganali molto forti sul territorio. Chi non li vuole? I paesi nordici. Noi non possiamo avere degli sdoganamenti portuali nel Mediterraneo del Sud fatti in una certa maniera e degli sdoganamenti nel Nord fatti in un altro modo. Ecco, sentiamo Giulio da Fermo. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno, senta, volevo dire, si rendono conto Renzi e la Mogherini che qualora come controsanzioni Putin bloccasse la calzatura, qui nelle Marche c'è un distretto industriale che chiude? Dottoressa Ferrarini? Insomma, siamo in prima fila sempre noi, insomma, paghiamo sempre, noi. No? Ma Mosca è stato il settimo mercato per la filiera tessile, abbigliamento e per i calzaturieri. Bene. Grazie. Cioè, il problema è che non è in questo momento l'espressione della Mogherini come alto commissario, purtroppo non ci porta niente. Non è ancora attiva. Però neanche come ministro degli esteri non ci sta portando a casa niente. Quindi diciamo che qui bisogna che ci capiamo Allora, se vanno a fare i ministri bisogna essere in grado, capaci, competenti di svolgere il proprio ruolo. Insomma, lei si sente sola in Europa a difendere il Medin? Io mi sento solissima, ma io ho bisogno che questo passi, anche perché veramente scatenerò la famosa marcia su Palazzo Chigi, ma non ci sono alternative. Cioè noi siamo l'unico paese nel mondo, e per paese intendo Europa, ad avere non avere l'obbligo dell'origine della materia prima. Senta, se lei esporta in Cina, siamo in finale, c'ho due domande che devo farle fare ancora. Sì, ma no, io le devo dire solo questo. Lei esporta in Cina, deve scrivere Made in Italy. Se un cinese viene in Europa non deve scrivere niente. Allora la reciprocità, la competitività delle aziende, come è una battaglia di chi? Aziende. È una battaglia di chi questa? Dell'Europa? Una battaglia che dell'Europa. Noi perdiamo in Europa questa battaglia, mi sembra. Io spero di non perderla. Pietrangelo Buttafuoco vuol fargli una domanda, dottoressa. La domanda è questa: il 16 e il 17 ottobre a Milano ci sarà il summit eurasiatico e Putin sarà presente. Non crede che gli imprenditori italiani, visibilmente arrabbiati, saranno lì a manifestare paradossalmente solidarietà a Putin? Guardi, gli imprenditori italiani in questo momento hanno tanti di quei pensieri di andare a manifestare davanti al summit, non lo so, però non lo sa, lo vedremo, sicuramente diciamo. A livello politico, guardi, io spero sempre una mediazione ovviamente molto diplomatica, perché credo che siano le cose di buon senso, che un paese di buon senso dovrebbe, vabbè, dovrebbe, per adesso sembra che il buon senso ce n'è poco. Chiusura, Mario Secchi, una domanda rapidissima. Qual è l'azione concreta che farete sul fronte delle sanzioni? Chiederete uno stop? Beh, assolutamente, questo è fuori discussione, noi l'abbiamo già chiesto, adesso c'è comunque in corso questo cessate il fuoco che bisogna vedere di questi giorni, e sembra che siano abbastanza incoraggianti, ma sicuramente il rischio di cui menzionavate prima della chiusura del gas potrebbe essere la maniera migliore per far convincere qualcuno che è ora di mettersi d'accordo. Grazie dottoressa Ferrarini. Mix 24. Vai de blessure si el grec en bato de bato, tra bato sono chantato. E si la cu de pec che noiso de soiso, trois oiseaux font un beau temps. Con le pielo d'un cousset che vole de fore. Mitica. Perché metropolitano oggi è successo di tutto. Ecco. Erano tutti ragazzi, tutti scavati nell'armonia, nella grazia, tutti sereni e tutti memori di Aurora. E con loro a danzare, perché danzavano, una donna greca che era Lella Deintera e si muoveva in quella folla di sorrisi e di suoni. Ci fosse stato il dio Pan, si sarebbe detto è un momento panico. E invece a dare respiro a quella danza era lei, Persefone. E non c'è aura più bella a Roma di quella che sorge dal bacio di Atene. Un giorno dovremo andare anche noi in metropolitana per avere questa ispirazione la mattina. Mario, nelle tue bolle si parla di queste cose? No, o io no? In metropolitana penso a Marino, ma comunque sa, pazienza, certo. Sotto Marino, anzi. Bolle. Questa è la famosa fontana di Trevi. Appartiene alla mia famiglia da molte generazioni. Senti, io sono italiano oriundo. Ah. Ho lasciato l'America definitivamente e mi voglio stabilire in Italia. Ma vado in cerca di un buon business, sa. E perché non ti compri la fontana mia? E tu te la vendi? Eh sì, un giorno o l'altro mi devo ritirare, capisci? I dolori reumatici, vicino all'acqua, eh? Allora la compro io. Dimmi un po', paesà, quanto costa la fontana? Ma tu pagheresti subito? Certo. Con 10 milioni della carne. 10 milioni di capi. Vabbè, abbiamo usato questo spezzone di storia del cinema italiano per dire che cosa? Che ci avviciniamo alla lunga trattativa tra maggioranza e opposizione sulla legge di stabilità. Ne vedremo delle belle, io penso. Come stanno andando le cose? Ma così, Giovanni, Noi, il preludio non è buono. Le notizie buone sono poche. Sì, sono poche. Poi ci sono delle interviste che io non riesco a capire. Meglio star zitti anziché dare delle interviste dove, insomma, si contraddice quanto dice il proprio premier. Non so. Per esempio, Padoan ha parlato, insomma, ha detto vabbè, è una manovra per la crescita, non per il deficit. Benissimo. Però il suo presidente del Consiglio ha annunciato tagli per 20 miliardi. Ora, vediamo un po' di fare un piccolo assunto economico. Se tu hai il PIL sotto zero o piatto e fai una manovra di tagli da 20 miliardi, si suppone, diciamo così, che la manovra sia recessiva, per forza di cose. Certo. Naturalmente dovresti avere anche un alleviamento, diciamo così, della pressione fiscale, però da quel che vedo, legge del Sole 24 Ore oggi, in realtà la TASI si sta dimostrando uno strumento che aumenta la pressione fiscale, molto probabilmente, di qualcosa, e certamente in alcune città è più cara dell'IMU. Se stanno così le cose, e se aggiungo last but not least, cioè ultimo ma in realtà il primo, l'asta della Banca Centrale Europea non è andata bene, e quindi neanche le banche vogliono i soldi, perché le imprese stanno, non ci crede nessuno, non ci allo credono sviluppo. A questo momento che succede? E succede che potrebbe esserci quello che dicevamo ieri e che oggi è stato scritto a dir il vero dal direttore del Corriere a sera Ferruccio De Bortoli, cioè questa cosa della troica comincia ad avanzare sempre di più. Ora, chiariamo la nostra posizione? Noi non la vogliamo e neanche... Piuttosto si vota. Esatto, piuttosto si vota. I più di questi laureati di Howard non valgono un cazzo. Serve gente povera, furba e affamata, senza sentimenti. A volte vinci, a volte perdi, ma continui a combattere. E se vuoi un amico, prendi un cane. E noi, insomma, per me Gordon Gekko resta la bussola a cui ispirarsi. A cui ispirarsi. E allora, quando c'ho qualche dubbio, Gordon Gekko. Beh, dai mercati, in ordine sparso, vi segnalo che ti ricordi il rialzo dei prezzi delle materie prime nell'agricoltura 2007-2008? Era una roba pazzesca, copertine dei settimanali, eccetera. Tutto finito, anche perché si è innescato un ciclo inverso interessante. Perché abbiamo le più grandi riserve di cereali, non dico della storia, ma quasi in questo momento, stanno accumulando grano nei silos, addirittura non sanno più dove metterlo. Qualcuno dice che stanno accumulando scorte, si fa spesso, in vista di tempi peggiori, quindi bisogna tenere d'occhio questo mercato. A Wall Street la Security Exchange Commission ha messo sotto inchiesta uno dei giganti del mercato, PIMCO, per la gestione dei fondi ETF. Erano dei fondi sostanzialmente che venivano presentati in maniera fuorviante. Segnalo che BNP Paribas sostituisce il presidente è la prima vittima del mega multone da quasi che 9 miliardi di dollari hanno pagato agli Stati americani. Uniti. Quindi interessante, molto interessante. Salamini! Berlusconi, cioè Silvio Berlusconi, ovvero il CAV, il Cavaliere dunque propose al Premier, a Matteo Renzi, facciamo un partito insieme. Lo sventurato non rispose, disse no, e lo rivela oggi Verderami sul Corriere della Sera, perché questo è il governo a cui si aggrappano tutti, in punto di realtà in tutto il mondo vogliono che resista Renzi, e quindi forte di questo dato quello dice no. Ma che cosa succede? Succede che ovviamente i vantaggi sono tanti, lui poi con i cosiddetti Google Glass, si dice così, Mario? Si dice così. Si dice così. Allora, insomma, con queste cose sul naso è stato ricevuto niente meno che da Hillary e da Bill Clinton. Con loro, ma soprattutto con Bill Clinton, si sono appartati, hanno parlato del... Si è appartato con Bill? Sì, e infatti hanno parlato del... È una cosa complicata perché, insomma, lo devo dire in demo plutocratese, di Jobacts. E siccome su sto job, tutto attaccato, su sto job c'è sempre il rischio di sbagliare, c'è sempre un rischio pericoloso di sbagliare, quella ha capito Levischi, e lui invece, ricordandosi della profferta d'amore, si è affidata al ricordo di Patrizia Daddario. L'errore fatale fu. Sara, eccomi. Quota rosa, hai fatto gli auguri al papà oggi? No, fate gli auguri al papà in coro. A Marco Tardelli che compie gli anni, tanti auguri. Tanti auguri. Sono salva. La mia quota rosa è questa. Just like a woman. Yes, it does. She makes. Ecco, rimango in tema, Ho avuto la prova che Harry Potter fa bene alle bambine, quindi Mario, tua figlia, puoi farlo vedere tranquillo. Certo. Ieri l'attrice Emma Watson, che ha interpretato appunto il ruolo di Hermione, la piccola maghetta coraggiosa e carismatica al fianco di Potter, ha parlato di parità di genere alle Nazioni Unite. Un discorso obiettivamente difficile da pronunciare, perché anche se hai 20 anni subito risulti vecchia e fuori moda. Lei invece ce l'ha fatta, perché ha parlato degli stereotipi di genere che però imprigionano tutti gli esseri umani. E questa la fase 2, così la chiameremo, del femminismo, convincere gli uomini a liberarsi come vogliamo per noi degli stereotipi e delle etichette che ci appiccicano addosso appena nati insieme al rosa e all'azzurro. Siamo tutti uguali e per questo dobbiamo essere liberi di sentirci fragili e forti. Questo è un femminismo, sentite bene, che include, che tende la mano ai maschi, perché noi vogliamo alleati e non nemici, e perché tanto sappiamo che il nostro tempo è adesso. Complicità! Ho capito. 24. Tantissimi, tantissimi sms per dire che questo fatto di essere in prima linea nel subire le sanzioni veramente non piace, e il rapporto con la Russia bisognerebbe tenerlo molto molto più caldo per paura di avere freddo quest'inverno. Salamino. Operazione Lessi. Allora, Giuseppe Falci sul Fatto riferisce di una delicata, complicata, raffinata e perfino sudata missione affidata a Gianfranco Miccichè da Silvio Berlusconi in persona. È l'operazione Lessi. Sei tu, sei tu, mia Lessi fedelissima, sei tu. È la nostra Lessi e Renato Schifani. Cavaliere vuole farlo tornare, non fosse altro perché al Senato si è determinati e così può soccorrere meglio Matteo Renzi. Allora, però, fatta questa, resta il resto: riprendersi i pezzi. E quindi è stato dato il via al casting, i deputati buttati tutti lì dove si possono buttare, in qualche cestino, invece vengono reclutati ragazzi, si fa per dire, insomma, ora vengono definiti ragazzi, quelli che hanno sotto i 35 anni, non sono ragazzi, sono dei giovani signori, praticamente vengono reclutati, e per dirla col linguaggio della nostalgia che soltanto quelli che hanno oltre i 50 anni possono capire, è in un certo senso il ricambio della quindicina. Giusto? Poi quelli sotto i 50 non la capiranno questa battuta. Insomma, i club Forza Silvio e il partito diventano una sola cosa sotto la guida di Marcello Fiori. Non si canterà più Forza Italia, bensì la nuova canzone, il nuovo inno, il nuovo motto, proprio perché sono tutti giovani al sapor di latte, prego. Ultima bolla. Libero. Vabbè, bolla, dai, su, vabbè, dai, vai, vai. Babbo, sua mamma dentro il letto sta. Babbo, sua mamma dentro il letto. Allegramente in guerra non si può dire, però insomma qua c'è la terza guerra irachena, non voglio rubare molto tempo, solo per dire che bombardare adesso ISIS in Siria, no, è una specie di sottosopra, un anno fa più o meno. Obama doveva bombardare Assad, poi, insomma, l'importante è bombardare in Siria, sì, mi pare. Meno male che la Russia e Papa Francesco ci mise una mano su questo, perché avrebbe sbagliato. A dire il vero, allora non si capiva bene chi erano i buoni e i cattivi. Oggi i cattivi, diciamo, sono quelli dell'ISIS. Solo un'avvertenza, perché vedremo poi nelle prossime settimane. La guerra non si vince solo con i raid aerei. Mai. Scordatevelo. Scordatevelo. Non c'è dubbio. Dovranno mettere soldati sul campo, e anche molto presto. Si è parlato tanto della Ferrari in questo periodo, dello scontro tra Marchionne e Montezemolo. Noi oggi però invece vogliamo raccontare la storia di lui, del fondatore. Con Marina Milone racconteremo la storia di Enzo Ferrari, l'inventore della mitica testa rossa. Quando mi guardo allo specchio mi domando cosa sono venuto a fare al mondo, perché ci sono restato tanto tempo e cosa ci sarà dopo. Non ho mai pensato di identificarmi in un costruttore, tantomeno in un industriale o in un pilota. Ho fatto quello che estremamente mi piaceva. Se poi questo ha portato beneficio diretto o indiretto agli altri, questa è una giustificazione al mio egoismo di partenza, che è quello e resta di soddisfare una mia ansia realizzatrice. E noi appunto dopo il GR con Marina Milone racconteremo la storia di Enzo Ferrari, ma visto che prima eravamo in clima di auguri, facciamo anche gli auguri per finire agli 80 anni di Gino Paoli. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi. Alberi